7. Ascolta e controlla. 1. L'acqua è indispensabile. 2. L'idea è interessante. 3. L'orchestra è straordinaria. 4. L'albergo è vicino alla stazione. 5. L'amico è italiano. 6. L'ufficio informazioni oggi è chiuso.